Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, in che condizioni è l'economia italiana? L'economia reale, non quella della finanza, non quella dell'economia pubblica, dei titoli di Stato, del deficit e del debito, ma l'economia delle fabbriche, delle aziende, l'economia produttiva. E troviamo una risposta non scontata a questa questione che da molti anni ormai ci attanaglia, da quando è iniziata la crisi che ha falcidiato molte imprese italiane. Una risposta, dicevo, non scontata nel libro di un protagonista proprio dell'impresa italiana, cioè Gianfelice Rocca, appartenente a un'illustre famiglia di imprenditori, quelle che hanno fatto l'industria italiana, la famiglia Rocca appunto. Gianfelice è il presidente del gruppo Techint, uno dei principali gruppi italiani, ed è presidente anche dell'Assolombarda, cioè degli imprenditori di Milano. Il libro di Gianfelice Rocca si chiama Riaccendere i motori, innovazione, merito ordinario, rinascita italiana, è pubblicato da Marsilio, 144 pagine, 16,50 €. Il tema del libro, come avrete immaginato, è l'impresa italiana, che ha una sua tipicità che la rende per molti versi simile a quella tedesca. Il punto di contatto è che le fabbriche italiane e quelle tedesche sono soprattutto fabbriche, come le chiama l'autore, ad innovazioni incrementali, costrette da un lato ma anche capaci di cambiare perché sul mercato devono vincere la concorrenza, ma cambiare senza shock e rotture distruttive, quindi cambiare attraverso anche il matrimonio con forme innovative particolari. Questo settore Rocca lo chiama medium high tech, un termine che adesso ci facciamo spiegare dall'autore. Buonasera a Gianfelice Rocca. Buonasera. Gianfelice Rocca, il suo libro parte da una osservazione, quella di una certa frustrazione, questa mi pare sia la parola che lei usa, per interpretazioni sbrigative su quello che sta succedendo nell'economia internazionale. A che cosa si riferisce esattamente? Ma mi riferisco sostanzialmente al fatto che chi fa un mestiere industriale spesso viene collocato come qualcosa riguardante il passato, mentre invece chi si occupa di economia digitale, di settori considerati avanzati, cioè di high technology, high tech, sembra essere soltanto il futuro. Nel mio libro cerco di mostrare come questi settori, che sono tantissimi, cui l'Italia ha un potenziale gigantesco, che è anche il potenziale della Germania e degli altri paesi, dà ai paesi in cui opera una ricchezza profonda, non solo materiale ma anche sociale, e quindi rappresenta qualcosa di assolutamente importante. E quindi in questo senso la frustrazione di vedere un mondo sempre impegnato sulla finanza, impegnato solo sulle cose high tech, io ho detto le cose che si muovono si vedono, le cose che invece si muovono lentamente non si vedono, e questo è un grave danno per la società e per l'economia. E per questo settore lei ha coniato un nuovo termine, il medium tech. Che cosa rappresenta il medium tech per l'Italia? Dunque, il medium tech rappresenta tutto il settore della componentistica automobilistica, piuttosto che le pompe, le valvole, i fittings, gli occhiali, la chimica fine, tutte le macchine utensili, cui l'Italia è fortissima, le macchine per il packaging, noi siamo leader nelle macchine per la distribuzione delle bevande, le presse per il vino, i forni industriali, quindi tutto un settore della metallurgia, persino gli yacht, di cui noi abbiamo una leadership mondiale, fanno parte di questo medium tech. Diciamo che non fa parte, non so, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Roche, Novartis, cioè farmaceutica, Boeing, un'avionica avanzata. Però è un segmento grande che cresce in tutto il mondo nelle esportazioni, persino negli Stati Uniti, in Giappone, cresce il medium tech nelle esportazioni a scapito del high tech, e quindi rappresenta questo segmento, che è un segmento caratterizzato anche dal fatto che l'innovazione non è un'evoluzione rivoluzionaria che nasce solo dentro i laboratori più sofisticati dell'università, ma nasce molto anche nelle imprese, in quello che noi chiamiamo un'innovazione incrementale, molto ricca di brevetti, che quindi si sviluppa in modo molto diverso, molto ricca anche di merito ordinario, nel senso che mentre in altri settori occorre il merito straordinario, cioè talenti assolutamente straordinari, questo è un settore che richiede molti talenti ordinari, cioè persone di grande qualità ma senza eccezionalità assoluta. Ecco, che cosa dovrebbe fare l'Italia per difendere e rafforzare le prospettive e le potenzialità di questo settore? Questo è un settore che vive sicuramente di una serie di condizioni al contorno, che io chiamo condizioni abilitanti, che sono quelle che riguardano in generale il mondo delle imprese. Cioè, no, tutti i settori sono oggi soffocati dalla burocrazia, anche da un sistema fiscale che evidentemente è estremamente è un carico molto pesante anche rispetto ai concorrenti, in particolare alla Germania che ha un carico fiscale e un carico di interessi perché paga di fatto degli interessi molto minori rispetto alle imprese italiane, quindi ci sono degli svantaggi strutturali, per non parlare evidentemente di tutti altri temi che riguardano proprio l'appesantimento italiano in tutte le attività, i permessi e così via. Questi sono i fattori, diciamo, abilitanti. Poi ci sono dei settori differenzianti. Occorre che fra le aziende e le università ci sia più collaborazione. Questo settore, che in Italia è ricco di innovazione, di imprenditori, ma è meno ricco rispetto alla Germania di patenti e brevetti. Ecco, questo quindi deve fare di più per tecnologizzarsi ulteriormente, cioè per rafforzarsi da un punto di vista tecnologico, e in questo un rapporto stretto con l'università è molto importante, un rapporto stretto con creare dei ricercatori industriali che siano capaci quindi di partire dall'università ma lavorare nelle imprese per ricollegarsi con l'università italiana nel mondo, e anche avere dei piani, come è stato nel caso di alcuni governi, l'industria 2015, cioè mettere dei premi, cioè finanziare progetti intorno alle sfide del nostro mondo, come può essere invecchiare in buona salute, l'advanced manufacturing oppure il risparmio energetico, ma premiare, dare fondi a chi si presenta come università insieme alle imprese, in modo da favorire una collaborazione che poi prospererà nel tempo al di là di questi finanziamenti. Un capitolo del suo libro si intitola L'Europa una realtà marginale, con il punto interrogativo, visto che ci stiamo avvicinando alle elezioni europee, è davvero così? L'Europa è una realtà marginale, che cosa può offrire a queste prospettive? Dunque, l'Europa è una delle zone economiche più importanti del mondo, è un'area quindi di enormi potenzialità, è una delle aree dove il manifatturiero avanzato, evoluto, che è tipico del medium tech, è tra i più forti che negli Stati Uniti. E fra l'altro questo tipo di manifatturiero proprio crea un'occupazione che è distribuita nella classe media principalmente, quindi io mostro anche che c'è un equilibrio sociale quando c'è un settore di questo genere molto forte. Quindi l'Europa deve approfondire se stessa sostanzialmente, però deve semplificarsi ed avere il coraggio in una fase così critica di essere più coraggiosa e seguire delle politiche più simili, direi deve alleggerire questa idea di un'austerità con i freni a mano tirati, perché questo è un momento invece in cui bisogna spingere in avanti, quindi deve vedersi come un tutt'uno. Se l'Europa si vede come spezzettata, per cui le aree che sono già in difficoltà gli si chiede ulteriori sforzi finanziari e così via, l'Europa rischia moltissimo. Quindi queste elezioni sono chiave nella direzione di avere più Europa, ma un'Europa più semplice e più coraggiosa. Ecco, in questa economia medium tech, che spazio c'è per i servizi? Lei a questo dedica alcune riflessioni? Ma il medium tech è un contenitore, fra l'altro è sempre di più difficile separare seccamente il settore manifatturiero dal settore dei servizi, perché tutte le nostre aziende sono piene di servizi professionali che ci vengono da consulenti, da quello che è stato chiamato l'outsource, cioè da cose che acquistiamo all'esterno, e poi si arricchiscono e dando al cliente dei servizi, che sono per esempio la manutenzione online, la capacità di integrarsi con loro, quindi partono integrando servizi e integrandosi via servizi con i propri clienti. Fra l'altro sono dei grandi contenitori anche di un'economia digitale, anche di quel settore che non è riconosciuto come strettamente medium tech. Tutta l'economia digitale viene incorporata nei prodotti, diventa quindi atomi da elettroni, come possiamo dire, e in questo modo viaggia nel mondo. Quindi è un'economia che integra moltissime tecnologie, e questa è la chiave del successo, noi lo vediamo in moltissimi settori. Lei conclude la sua presentazione del libro dicendo che l'Italia in fondo ha una prospettiva positiva, nel senso che si può anche stare benissimo, scrive, da piccoli in un mondo fortemente interconnesso, come dimostra un nostro dirimpettaio, la Svizzera, quindi piccolo e bello anche per i paesi? Ma io credo molto che la competizione oggi sia fra grandi aree metropolitane regionali. E questo è ormai studiato in tutto il mondo e volano questi tipi di strutture, quindi io non credo che sia pericoloso essere relativamente piccoli, essere diciamo aree metropolitane e regionali all'interno di un'Europa vuol dire essere secondo me in una dimensione molto giusta. Quello che fatica oggi a trovare un ruolo sono gli stati-nazione, perché sono i resti di un passato in un'economia globalizzata dove molti fattori sono al di fuori degli stati e nazioni, ma restano un appesantimento anche culturale. Quindi qui c'è una grande sfida verso il futuro, perché noi usiamo uno strumento che per certi versi è obsoleto e quando poi lo enfatizziamo, come avviene in Europa, dove la parte federale dell'economia è piccola rispetto alla parte nazionale, che è l'opposto di quanto è gli Stati Uniti, quando le condizioni sono queste è effettivamente molto più difficile operare. Quindi questo è il tema in cui noi ci troviamo. Però nel campo industriale ci sono infinite nicchie, ci sono molte società, proprio perché i prodotti sono quasi personalizzati, che avendo un fatturato di 100, 50, 100 milioni possono stare benissimo nel mondo, perché possono anche collegarsi grazie all'economia digitale con i propri clienti senza, in modo diverso dal passato. Quindi non è vero che in sé, dipende dal mercato di riferimento, dalle nicchie di mercato, dalla grande variazione. Ecco, la definizione di questo settore del medium tech, secondo lei può provocare una divisione, una conflittualità all'interno del mondo imprenditoriale? No, non credo, proprio perché il medium tech, ad esempio, è fortissimamente integrato col mondo digitale, col mondo dell'informatica, quindi c'è un continuum, però rappresenta un modo di vivere l'innovazione. L'innovazione si chiama in molti modi. Ecco, l'innovazione incrementale è molto interessante perché nasce dentro le fabbriche, nei laboratori, e una cosa che io sottolineo molto, nasce insieme ai propri fornitori e ai propri clienti. Quindi nasce in una forma di grande capacità collaborativa. Questo rafforza i settori al di fuori del settore medium tech, perché la capacità di utilizzare quei prodotti, come i prodotti digitali, che nascono fuori, ma qui in queste economia vengono enfatizzati, trovano una loro espansione. Quindi io ho visto nei nostri rapporti che abbiamo con tutti i settori paralleli dell'informatica che il medium tech è considerato un grande fattore espansivo, quindi non è in contrasto. Grazie a Gianfelice Rocca, autore di Riaccendere i motori. Buona serata. Grazie mille. Una visione globale del mondo e dell'economia troviamo nel coraggioso libro di Giulio Sapelli, Dove va il mondo, per una storia mondiale del presente, pubblicato da Guerini e Associati, 134 pagine, 12,50 €. Quello di Sapelli è un programma ambizioso che riflette i lavori effettuati nell'ambito della Fondazione ENI, Enrico Mattei. E la sua è anche una visione più problematica. A proposito dell'Italia, scrive infatti Sapelli, di vederla molto più sola di quello che io stesso non sia orientato a credere. Eppure anche Sapelli scrive e aggiunge che anche l'Italia, vale la pena dirlo sin da subito, rivela dosi inaspettate di ricostruzione politica. E allora troviamo nel libro una disamina dei grandi centri di crisi, a partire da quella mediterranea innescata dalla primavera araba esplosa nel Nord Africa. Adesso i nodi sono venuti al pettine anche per l'insorgere di nuovi fattori come gli shale oil gas, che hanno modificato radicalmente il mercato dell'energia e dunque le stesse prospettive strategiche. Un cambiamento che avrà un impatto importante e soprattutto in un continente come l'Africa, nel quale Sapelli individua il motore del prossimo sviluppo. E dunque, conclude il libro, bisogna cambiare tutto, bisogna soprattutto cambiare l'Europa. E qui Sapelli è molto chiaro, scrivendo che occorre sì rassicurare l'oligopolio finanziario e pseudotecnocratico europeo teutonico, come lo definisce Sapelli, che si vogliono ridurre gli sprechi, ma occorre anche, aggiunge, un piano del lavoro fondato sul principio che non è liberalizzando il mercato del lavoro che si crea occupazione, ma investendo in settori essenziali per la crescita, quali le infrastrutture, le nuove tecnologie tridimensionali, i cluster meccatronici essenziali per la vita delle nostre piccole e medie imprese più evolute. E qui si torna al tema di Rocca. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si è avviata qualche giorno fa su un canale televisivo, su Sky Atlantic, una nuova serie importata dagli Stati Uniti, il paese dove ha avuto un enorme successo, House of Cards, con Kevin Spacey come protagonista. La serie è adattata da un thriller politico di un protagonista nell'ombra della politica inglese, Michael Dobbs, che era stato consigliere di Margaret Thatcher e che si era ritirato dalla politica perché disgustato da quello che aveva visto. Nell'89 Dobbs pubblica questo libro, dal quale era stata tratta una prima serie televisiva della BBC e poi quella americana datata 2013, adesso negli schermi italiani. Questo libro adesso è pubblicato in Italia, quindi se volete seguire la serie potete leggere il libro e sapere come va a finire la storia. House of Cards, Fazzi, 448 pagine, 14,90 euro, tradotto da Stefano Tummolini. Il successo di questa serie conferma la trasformazione profonda, radicale, anzi, che questo nuovo genere di intrattenimento ha determinato sul mezzo televisivo e in generale sull'entertainment. E di questo appunto parla il libro che adesso vi presento, un libro di un critico televisivo americano fra i più famosi, Alan Sepinwall, che si intitola Telerivoluzione, da Twin Peaks a Breaking Bad, come le serie americane hanno cambiato per sempre la TV e le forme della narrazione, pubblicato da Rizzoli, 478 pagine, 14,50 euro, tradotto da Irene Annoni. Anche questo libro ha avuto un successo enorme negli Stati Uniti, tra l'altro era stato autopubblicato dall'autore e poi invece grazie al Tam Tam è diventato un caso e ha incontrato un grandissimo successo. In che cosa consiste la telerivoluzione di cui ci parla Sepinwall? Si tratta sostanzialmente del fatto che la televisione finalmente in questi ultimi anni e con questi prodotti ha raggiunto il 100%, scrive, del suo potenziale, uscendo dall'ombra del cinema. Ma la rivoluzione è stata anche una rivoluzione tipo commerciale, col moltiplicarsi naturalmente delle reti, delle piattaforme, che hanno permesso di allargare molto l'offerta e di raggiungere segmenti di pubblico sempre più specifici. Mentre prima quindi vincevano i prodotti generalisti e quindi magari di bassa qualità, ora, scrive l'autore, si possono guadagnare dei soldi, tanti soldi, realizzando show a cui piccole porzioni di audience si affezionano con passione. Si possono fare i soldi, scrive, anche con serie guardate da 3 milioni di persone, se sono le persone giuste, inclini a seguirle con attenzione. E qui troviamo la storia quindi di questa rivoluzione che inizia negli anni Ottanta, per avere la prima grande affermazione appunto con Twin Peaks e la serie che era stata realizzata da David Lynch. Ma la prima serie veramente rivoluzionaria, ci spiega il libro, fu Oz, uno show di ambientazione carceraria. E invece la prima che ebbe un enorme successo commerciale, lo conosciamo anche in Italia, fu I Soprano, la serie che, scrive l'autore, fece capire al mondo che in TV stava succedendo qualcosa di speciale. Quel prodotto riscrisse le regole e rese la televisione un posto migliore, più accogliente per un pubblico a cui piaceva pensare, persino quando narrava le vicende di un branco di ostinati, ignoranti esseri umani. Interessante nel libro anche la testimonianza nell'introduzione di un grande esperto italiano come Carlo Freccero, che tra l'altro portò in Italia molte di queste serie e che qui fa alcune osservazioni sulla rivoluzione rappresentata negli schemi narrati dalla TV e dal cinema, proprio per esempio dai videogiochi. Oggi, aggiunge Freccero, siamo a una nuova svolta. L'impoverimento di massa da un lato, la visione paranoica di internet che, scrive, progressivamente sostituisce l'ottimismo consumistico della televisione commerciale, favorisce una reazione che sta nel cercare non più nel malfunzionamento dei meccanismi economici e finanziari la causa dell'impoverimento collettivo. Ci vogliono colpevoli in carne e ossa. Sul web cominciano a circolare voci di un complotto mondiale. Ultimo elemento che ha contribuito a rivoluzionare il rapporto con la televisione l'11 settembre del 2001, perché dopo quella data, aggiunge Freccero, diventano visibili immagini di realtà che prima, quando anche praticate occultamente, sarebbero state colpite da interdetto e censura. Perciò, conclude Freccero, per capire l'America nulla di meglio che queste serie televisive, perché in queste serie, aggiunge, c'è uno spaccato della cultura americana molto più profondo che in qualsiasi trattato di sociologia. Tornando al soggetto di quella serie televisiva, cioè la politica, in particolare la politica americana, vi segnalo un libro assai diverso come inclinazione, perché rappresenta un grande atto di speranza nei confronti della politica e nei confronti degli Stati Uniti, ed è l'autore di questo libro, uno dei maggiori poeti americani, Walt Whitman, vissuto tra il 1819 e il 1892, di cui Piano B ripubblica Visioni democratiche. 120 pagine, 12 euro, tradotto da Mariolina Meliadoff Reth. Queste pagine sono particolarmente appassionanti e furono pubblicate poco dopo la guerra civile. Nel libro il poeta esprime la propria visione artistica e intreccia questa visione artistica con le riflessioni sul sistema politico, sul proprio paese e sulla cultura degli Stati Uniti, e contribuisce anche questo libro a spiegare agli occhi di Whitman quella che è l'eccezionalità americana. Infatti il poeta richiama proprio l'inizio del libro e si rifà alle parole di un grande filosofo inglese, John Stuart Mill, due tratti esemplari della democrazia americana: una grande varietà di personalità e la piena libertà per la natura umana di espandersi in innumerevoli direzioni anche in contrasto tra di loro. La democrazia, però, aggiunge Whitman, può essere anche pericolosa, e ci spiega perché, soprattutto perché il suffragio universale favorisce il consolidarsi di uno Stato che può rivelarsi oppressivo. E scrive infatti Whitman: pesante e immenso com'è, chi riuscirà a trattenere il mostro? Chi metterà briglia al Leviatano? È inutile negarlo, la democrazia lascia crescere rigogliosamente la più fitta distesa di piante e frutti nocivi, mortali, introduce invasori uno peggiore dell'altro, e quindi ha bisogno di più nuove, più vaste, forti e volenterose compensazioni e spinte. Per eccellere, quindi, gli americani dovranno contare su una letteratura vigorosa e ancora insospettata, su personalità e scienze sociali perfette, originali, trascendentali. Dovranno dare vita a nuove stirpi, scrive Whitman, di insegnanti e di donne perfette, indispensabili a educare la prole del nuovo mondo. Spingiamoci un po' più in là nel tempo con un altro mostro sacro della cultura americana, cioè Tennessee Williams, che descrive in modo amaro e implacabile il suo paese nella raccolta di racconti L'innocenza delle caramelle, proposto da Edizioni E.O., 334 pagine, 16,50 euro, tradotto da Giuliana Beltrami Gadola e Nora Finzi. Tra i racconti troviamo il Ritratto di ragazze in vetro, dal quale Williams trarrà poi una delle sue opere più note, cioè Zoo di vetro. Sono queste storie che affermarono la fama di Williams come autore di racconti e furono pubblicate in due raccolte nel 1948 e nel 1954, presentate qui insieme. Sono storie complesse, spesso dolenti, talora apparentemente fantastiche, ambientate in varie città americane, tra cui spesso troviamo New Orleans, con personaggi talora indimenticabili come l'Apollo Tronco, il primo che apre la raccolta e che racconta il drammatico destino di un prostituto costretto a questa scelta, che eserciterà a New York dopo che gli è stato amputato il braccio che ha perso mentre svolgeva il servizio militare. Un incidente che, scrive Williams, gli fa perdere il nucleo centrale della sua esistenza. Di tutt'altro genere un'altra raccolta di racconti, anche questi spesso sono dei capolavori. Qui l'autrice è contemporanea quasi a Williams, è Dorothy Parker, vissuta tra il 1893 e il 1967, una straordinaria descrittrice dell'ambiente scintillante di, e non solo, di New York. I suoi racconti sono presentati nel volume Eccoci qui, pubblicato da Astoria, 170 pagine, 15 euro, tradotto da Chiara Libero. La Parker ha una ironia accompagnata da una buona dose di perfidia nel descrivere questo mondo newyorkese. Nel primo racconto, per esempio, Composizione in bianco e nero, troviamo una donna che squittisce di simpatia per un artista per la quale va matta, che però è nero, e questo naturalmente mette alla prova le cattive abitudini. La donna si sente molto democratica e alla mano perché ardisce parlare con il suo interlocutore. E poi troviamo fra gli altri racconti quello che forse è il capolavoro, Una bella bionda, la signora Hazel Morse, una bella donna che riesce a incantare vari pretendenti, coi quali però non riesce mai a costituire un rapporto duraturo, tanto da cadere preda dell'alcol, ma capace alla fine di recuperare, proprio nelle ultime righe del racconto, un sorprendente affetto per la vita. Un altro autore americano di quegli anni è John Williams, vissuto tra il 22 e il 94, noto anche in Italia adesso per alcuni romanzi che ne hanno segnato la riscoperta, Butcher Crossing, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, e Stoner. Adesso esce il primo romanzo che egli pubblicò, Nulla, solo la notte, sempre pubblicato da Fazzi, 140 pagine, 13,50 euro, tradotto da Stefano Tummolini. Questo è un libro del 48 che Williams scrisse mentre si trovava in Asia per il servizio militare. Williams era un signore di origini particolarmente modeste che cominciò appunto a scrivere in questa occasione. Al ritorno dalla guerra si iscrive all'università all'università di Denver e lì rimarrà anche come docente fino alla morte. E appena arrivato all'università Williams riprende questo libro e lo pubblica. Siamo qua in California, dove consuma le sue giornate il protagonista, Arthur, uno studente appassionato più di alcol che di libri, ma tormentato dall'esigenza di dare un senso e un'organizzazione alla propria vita. Quando si sveglia dopo una sbronza, il disordine della propria casa lo colpisce per il parallelo con la propria vita e dice: «Questa stanza è come la mia anima, sporca e disordinata». E poi sorrise. «Al diavolo», si disse, «è una stanza e basta, e stamattina la cameriera la pulirà, cosa che non può fare con la tua anima. Chi te la può pulire? L'anima?» In questa ricerca c'è un buco nero rappresentato dalla famiglia, con una madre scomparsa e un padre sempre in giro, che a un certo punto Arthur incontrerà in una cena che si rivelerà un dramma, fino all'epilogo finale con una donna, l'incontro con la quale lo trasformerà in un fiume che fa straripare tutta la somma, scrive Williams, di tutte le sue emozioni represse: amore, odio, pietà, paure, orrore, appagamento, noia, bramosia, tedio, passione, tutto. E a questo punto... Il confettino. Un'avventura nel gelido Nord America è quella che capita a Brian nel libro Nelle terre selvagge, pubblicato da PM, 216 pagine, 14 euro, tradotto da Paolo Antonio Livorati. Questo è un romanzo su un tredicenne precipitato da solo con un piccolo aereo da turismo, rimasto senza controllo e senza guida per l'infarto che ha subito il pilota. Brian si dà da fare quando recupera la terra, assaporando dopo il salvataggio una breve notorietà che non sarà però sufficiente per ricostituire il legame tra il padre e la madre, quello che aveva segnato gli ultimi giorni prima del viaggio, e soprattutto aveva in qualche misura accompagnato l'inizio dello stesso viaggio e dello stesso libro. Il ragazzo conosce un segreto, è il segreto che determina il divorzio fra i genitori, un segreto che non vorrà mai rivelare al padre. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Oreggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.